Storie de noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti voi cari ascoltatori. Un saluto affettuoso da parte di Gesi. E di Antonio. Oi Antonio, come va? Beh, bene. Tutto bene? A prescindere dal tempo, tutto bene. Vabbè, dai, il tempo... Ci accontentiamo. Non si è sposato per fare quello che... Comunque hanno detto che dall'8 al 9 giugno... Ma speriamo, dai. Verrà il caldo. Attendiamo le previsioni favorevoli. Speriamo che in luglio non si vada ancora col piumino. Ma lo speriamo. E speriamo e diamo un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it e ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. E al nostro coordinatore, a tutti e due, un ciao affettuoso, dai. Allora, stasera, Antonio, abbiamo un ospite virtuale, un ospite che ormai penso che tanti dei nostri ascoltatori conosceranno, apprezzeranno, ed è la signora Franca Turchetto. La Franca ci parlerà di personaggi veneziani, perché lei è un amante della storia di Venezia. Però prima andiamo ad ascoltarci una canzone. E visto che si tratta di Venezia, ascolteremo dai Girasoli Voga e va. Venezia rassomiglia ad una sposa vestita di merletti di burano, sospiri tra le gondole festose, dal Lido alla laguna, sposi ed amanti, buona fortuna. Voga e va, gondolier, canta in cor, non posso andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorar. Ho visto due colombe andare in alto, volevano fare il nido in paradiso, e son tornate a notte su rialto, ed han lanciato un grido, Venezia nostra, sei il più bel nido. Voga e va, andar più via, perché Venezia mia m'hai fatto innamorare. C'è un vecchio gondoliere di Santa Croce che piange quando passa la regata, lui più non può remar ma spinge a voi le gondole in ghirlanda, lui che era il primo sul Canal Grande. Voga e va. Eccoci di nuovo in studio e abbiamo la nostra Franca Turchetto in linea. Presente. Franca? Buonasera, Franca. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. 2, 3, 4, in quanti sei? No, siamo... Sempre noi altri soliti, due. Dai. Sempre noi due, poi c'è il regista, appunto, il coordinatore, certo. Siamo in quattro. E 5 con me. E 5 con te. Una folla. Allora, Franca, stasera... Di che cosa ci parlerai? sera parlerò di una cosa originale, sì? Cioè non originale, parlerò dell'antica arte dei merletti veneziani. Ah, bene. Capolavori di antiche mani piccole piccole. Bene, allora sentiamo un po'. Allora sentiamo. Dunque, la canzone inizia con Venezia rassomiglia a una sposa. Vero? Sì, vestita, esatto. di merletti di Burano. Perciò siamo in tema. Allora mi comincio con tre righe. Non sono l'autore, sono roba mia. E parla di questo mestiere. Donne, sentae in sercio a ricamar. E man par tanti ragni, e qua bava che vien fora da sti diese dei, sul tambureo deve iudo, e pittura motivi antichi mai desmentegai. Ecco. Bella, molto bella. Introduzione, sì. Ecco. Allora cominciamo. Allora, l'arte di lavorare il merletto a Venezia è nata intorno l'anno 1000. Nella laguna veneta, praticamente tra Ciosa, Torceo, Pestrina e Buran. Buran è stata l'ultima diventata per particolari circostanze storiche, economiche, che sarebbe Massalongo contare, cioè Buran è stata l'ultima a restare, insomma, a ciappare questa arte. Ah, perché prima dove era? Prima che era a Torcello, Pellestrina e Chioggia. Ho capito. Burano è stata l'ultima e è più famosa e quella che ha durato di più. Sì, sì, sì, sì. Dunque, ma Venezia è la prima della classe nel mondo, non ancora conosciuto, e ha conservato il suo primato fino a metà del secolo XVII. Un gruppo culturale che ha dedicato diversi anni fa una mostra con risvolti storici di gran successo e vivo interesse dei studenti zestai. Tanti zestai studenti che ha partecipato a una costante ricerca, andando a curiosare e tocciare nelle biblioteche, come me, negli archivi, musei, e scoprire l'importanza di questo elemento che ha avuto nella storia e nell'economia dell'artigianato della Serenissima Repubblica di Venezia. Nel 1600 Buran vestiva quei suoi ricami esieri come il sospiro di un sogno, e vestiva d'oggi suo mugger, zar, suo mugger, imperatori, reali, papi, vescovi e i grandi della Spagna e tutti i lord inglesi, compresa tutta la gente del Rinascimento, impitturata nei mezzo quadri di artisti famosi, perché se avevi presente i quadri di questa epoca qua, ti vedi gran uomini, la maggior parte, merletai della testa ai piedi, e meglio chi si è messo il merletto anche sul naso. Ma insomma, gli uomini col merletto, sì, proprio. Sì, ma tutto gli uomini stai sempre il primo. Ah. Ma, Gesù, da dove viene sta bella storia del merletto? Perché qua è l'origine, no? Certo. Tanto parlà da far nascere perfino una leggenda, sia vera o sia falsa, non lo so. I merletti delle sirene, un titolo che sposa l'arte della poesia con la magia del saor del mar. Andiamo a fiaba. Si dice che ai inizi della storia di Venezia, un pescaor al largo del mar Adriatico trova nella sua rete una ciocca di erbe marine, e avrà avuto la forma di una mamma, come, non so, delicate nei contorni e nei trafori, de color biancastro e fina come a seta cinese, e faceva parte sta erba di una pianta rara piena di venature da parer perfino pitturata da mani esperte. Per punto ti dico, però, che un artista che avesse disegnata e pitturata, sì, sì, tanto sì. Bella che era, sì. È il suo nome latin ze Alimedia Optunia, non so altro. Alimedia Optunia. Tu conosci il latino, Antonio? Sì, ma non conosco questa nome. È una roba che ne molto esista, particolare. Può essere che ne esista neanche altro, chissà, certo, da dove certo. Che è arrivata sta alga. Dunque, io la gran curata, e se l'ha messa con cura né a Cassea né a Sestea, dove che era il materiale che avrà pescato, o che ha pescato solo che alga, non si sa. E io tutto contento di portare queste erbe come dono d'amore a Somorosa. Questa Somorosa poi resta qui oggi sbancai, in magada, c'è una roba che pensi se io sto qua. E da contentessa c'è cioè, che sciocca un bel vaso sulle ganasse, tanto io che guadagna qualcosa. Ma che sei un perché? A chi tempi non c'era come adesso, non c'era come adesso sistemi sofisticati di mantenimento, di conservazione, vero? E neanche l'arte della magia. Cosa fa Statusa? E a donna, cioè Statusa, donna che pensa, ricordiamo se ha donna che pensa. Donna che pensa, ah, sì. Sì. Che viene il sospetto che queste erbe, malgrado e fosse trattate con impacchi di acqua salsa, e se potesse desfar presto, perdendo un poco, in poco tempo i stupendi disegni e i filigrane. Pensa a te che go pensa anche a me, ecco che viene l'idea e risolve il mistero. Ea fissa e a tramadura e tutte le fibre de aga in torcoae, su etea che ea aveva la fissa, insomma, su etea del suo inseparabile tombo, e praticamente che aveva avuto uno strumento di lavoro. Sì, Piccinini. Il tombo è uno strumento. Sì, no, ma il tombo non si usava proprio ancora, ea praticamente che avrà avuto, non so, qualche arnese che somigliava, no? Sì, certo. Perciò ha tutta la sua pazienza e ha tolto ago e asse e ha cominciato a fissare sta roba che non si desfa. Questa è la leggenda, diremo. E con l'ago e asse e ha fissato tutta la tramadura di sta alga prima che si seccasse. La gattuta così, sì. Ti senti presente il punto busa? Sì, sì, sì. Ecco, sì, che ha fatto da fuggita, veramente non so sì, come sì, dire. Sì, ecco, sì, questa è la leggenda di come che può essere nato il merletto, però è diventata certezza quando parliamo della storia del merletto. Par che sia cominciato così. Par cominciare, par che il più antico tocco di merlo veneziano sia quello che si trova nella chiesa di Santa Fosca, cioè non è conosciuta la chiesa neanche a me, però si trova nell'isola di Torceo, che è un'altra chiesa dopo, che è un gonfaomia, si chiama Pennello, con due N e due L, no? Pennello. Sì. Stesso nome che si dà a strumento che dopo il pittore, il penneo. Eh beh, no? Certo, no? Sì. Ma il vocabolario del dialetto veneziano lo descrive come penneo senza doppie. Beh, sì, beh. E sto penneo non sarebbe altro che un segno, un pagliotto, cioè un'insegna dei confraterni religiosi, fa conto di una specie di triangolo. Ho capito. Sto penneo. Ma allora da questo che ecco, è nato che se già adesso come che si è nato, la leggenda dice così, però che si è già delle testimonianze che esisteva già di sti ricami, di sti merli ancora prima di alga. Prima di alga esisteva già ancora questo tipo di pennello, sì, diciamo. E ora è data sto pennello, sta bandierina, sto pennello del 1366, è ricamà in seda e fili d'argento, tutti in tressai. Che bello. E merletti più antichi e preziosi, ma non veneziani, si trova nel tesoro di San Marco a Venezia, con ricami bizantini e dell'XI-XII secolo. Quindi i bizantini sì, facevano realtà, già queste sì, cose. Sì. Fra tutte le forme di ricamo marca Venezia, al primo posto lo merita il ponte in aria, adesso vi spiego cosa è. Sì, aspetta un attimo, sì, che ascoltiamo una canzone, sì, e sì, poi sì, spiegherai. Sì, allora, sì, come seconda canzone vogliamo ricordare la scomparsa di Little Tony con una bella canzone intitolata, siamo proprio in tema, Mare, profumo di mare. Mare, profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare, del cielo e del mare. Sento che sto lasciandomi andare, questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare. forse è solo da un momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Profumo di mare, è colpa del mare, del cielo e del mare, questo sole che cosa può fare, io non ci credevo, ma posso sognare, forse è solo momento che credo al sentimento e giuro che per noi non finirà. Ed eccoci di nuovo in studio. Una precisazione sul brano che abbiamo appena ascoltato: il titolo originale era Love Boat, analogo diciamo a una serie televisiva famosa. Ed eccoci di nuovo con la nostra amica Franca. Franca? Sì. Ti è piaciuta la canzone? Molto bene, cioè, è sempre qui un altro tocco. Di vita che se ne va. Sì, storia. Bravo, sì. Ho visto anche te di tutta, sì, ho visto tutta questa cosa, vabbè, qui è con storia. Dunque, sto punto in aria, è il Vienciamà così, perché praticamente non ho nessuna base sotto. È fatto coago, e fio e basta, ago e asse, molto fin. E mi ricordo mi, cos'ero picco, dove stavo di casa, che c'era una, non una ricamatrice, una signora che lavorava, e ora praticamente e forma una rede fina, costo ago e asse, una rede. Ma pensa che lavoro... Sì, è in aria, appunto in aria, perché appunto non ha base. Sì, sì. E quindi è anche più difficile per appunto, per questo dico che se sta, un lavoro esclusivamente nostro, diremo, per dopo se la industrializzare, dopo sentiamo come che si sviluppa, però io praticamente che va ago e asse e basta. Ma di se vorrà posare su un tocco di legno o su un zenocio, come che si fa magari in un punto giorno. Sì, sì, ma... Però non c'era nessuna base. Nessun supporto. No, una volta che io gli facevo sti vei, che non so, è grandissimo, c'era vita sposa e chiamava. Dopo aver fatto sta base, ora, che c'era una rede ma tanto fina, gli ricamava sola. Gli faceva roselline, gli faceva di piccoli cordoncini, di grigori, però sempre ago e asse. Sempre senza... E fantasenza, sì, sì. Nessuna... Ecco perché diventiamo appunto in aria. Una pazienza infinita. Ah, sì, sì, infinita perché... E di fatti, non so se ti ricordi, quando chiama il veo da sposa, diremo, cioè il veo resta veo. Eh sì. Quello esatto. Originale, eh sì. Quello originale, proprio perché adesso che si imitazione, se quello che ha che a piccola baetta in mezzo ogni tanto, era un piccolo ripiè, un puntino. Sì, sì, sì. Sì, sì. Quello è il punto in aria. Fa conto se il punto in aria, sì, solo sì, che sì. Dopo le donne che facevano altri ricami. Beh, certo. Perché a donna paricamo era sempre vuo il privilegio, insomma. Ma difatti c'erano delle ricamatrici, non so adesso, ma... Beh, adesso che ne sei pochetti, ti sai dove che ricamava tanto? Nei conventi. Ah, sì? Per esempio, mi dove che stavo di casa a Venezia, diremo che è un convento, dove che sei carceri femminili. Mandavano le ragazze a imparare proprio dalle suore? No, dove che sei carceri femminili adesso? A Giudecca? A Giudecca, una volta si chiamava i convertite. Perché sta le famose Maddalene. Sì, sì. Sì, ecco. Sì, sì. E ora è ai suore... insegnava a fare questi ricami qua, non a tombo, però ricami su nisciòi, su centrini, coverte, fodre dei nisciòi, dove così, imparava là dopo, cioè perché magari col tempo andando avanti si erano confianti. Adesso le spose trovano tutto fatto. Sì. Un artigianato di classe, l'origine tanto, sì, dell'artigianato era, veneto. Sì, proprio. Sì, è un artigianato di classe, però sì. È che costava tante ore di lavoro che povere donne, perché magari era solo in casa, cioè Venezia. Consumai, perché magari aspettava i mari, giorni e notti che tornasse da pesca. E cosa di che facevano? Che c'era ceri che a volte da terra, neanche a tendoni da nettare, neanche a tanti veri da vita del sacrificio. Sì, e a medio che tante persone che io ci penso proprio di sì, perché deve essere un lavoro, no, un lavoro meticoloso, perché i puntini sono tanto piccoli piccoli, e il fio dove che lavora proprio fin non sa vedere neanche che misura che gasto fio, fa conto come asse proprio, sì ecco. Allora, torniamo a puntinaria. Però, questo puntinaria siamo nell'ipotesi che sia stato inventato nel Medio Oriente. Torniamo indietro ancora alla questa storia. Al tempo di Atore de Babelle. Addirittura. O nei vicinanze. E a Bibbia, to l'esempio dal commercio che faceva gli Assiri, che godeva il privilegio di aver come cliente niente manco che Re Salomone. Pensa un po'. Sì, a dove andiamo. Quindi Re Salomone usava... usava queste robe. Dunque, certo. Nel Sacro Testo, nella Bibbia, oltre ai vari esogesti, chiamiamo esogesti, stessi lavori, si trova la misteriosa porpora del color che ha inventato i fenici, il color porpora, no? Sì. Inventata proprio dei fenici, e altre trine, altre vei, coltrine, che serviva a decorare il suo tempio di Salomone. Un re che oltre a essere saggio aveva anche buon gusto, perciò che aveva grana, poteva fare quello che voleva. La magnificenza di Re Salomone. Dunque, le religioni antiche hanno avuto sempre il privilegio del merletto, e si sta a trovare che nei tombi egiziane si è trovato tessui, ornai di trafori, fatti in Atea e fermai con l'ago e asse. Sempre con quel sistema. Sempre con il sistema, sì. Ecco, Osiride, divinità della luna e della vegetazione, la teneva in considerazione il merletto, perché lavorava i bordi delle nuvole in argento come effetto magico di cristalli delle grotte, perciò anche Osiride era una ricamatrice. Pensa un po'. Guarda dove che siamo andati. È bello parlare delle divinità greche. Ecco, eh? Però l'arte nasce, come si è detto, nel Venezian. Andiamo un fiantino più avanti, nei conventi dei suore e negli ospici di carità, cioè che c'era le zitelle che si trova sempre a Giudecca, penitenti che adesso ha cambiato nome alla Giudecca, e dopo anche su un ospizio agli incurabili che si trova su un altro posto. Sti istituti che dava a stetosete ospitalità, educazione, assistenza e a queste giovani veneziane povere ed erano anche orfane. In compenso, vero, come adesso, guarete lavoro nero, massacrando, facendo sgobare 10 ore al giorno al tombo o al telaio, perché dopo aveva inventato anche una specie di... Ti te ricordi quella roba di cammo? Cosa si è? L'arcolaio? No, l'arcolaio, quello rotondo che ricamava un camion, insomma, un altro strumento telaio, sì, obbligandole a preghiera per 10 ore. Ah, quello sì. Sì, prima 10 ore a Goralmello, sì, dopo 10 ore di preghiera, perché aveva fatto pensieri peccaminosi durante il lavoro. Oh, sì, insomma, vabbè. Una concezione un po' particolare. Sì, ma sì, diciamo, è meglio guarete, bisogna che si guadagnasse. Insomma, la giornata per loro era di 20 ore. Guardati, tra preghiera e lavoro. Però io avevo un boccone di pan. Un boccone di maniera che aveva avuto una sopa di spessati, non so. Allora... Però, andiamo avanti di qualche secolo, solo nel 1500 sta arte si è cominciata ad avere un sviluppo industriale. E sto qua grazie a tre benefattrici, tre signore riccone, che ha istituito ora delle scuole di insegnamento. Non c'era più lavoro in nero fatto in casa. Sì, era proprio una scuola. Addirittura, queste tre signore, ed era niente manco, tre dogaresse. Pensa un po'. Mugger del Doge. Sì. E qua verso una parentesi, perché chi che non conosce la storia, diremo, nei particolari, specialmente veneziana, e pensa e dice che sia stato ore a inventare il merletto. Investiga, istituio delle scuole, che sei diverso. Perché mi lo sentio girare nell'aria che appunto del signore parlava che c'è stato tre nobili veneziane a inventare il merletto, un cavo, non sapevo niente. Lo ha organizzato dal punto di vista professionale. E io che in successione del tempo e si è andato a fare nel difendere estate, quasi vero, e impegna veramente su qualche no istituto, su qualche, sì, in qualche posto, e comprare gli attrezzi, che comprava il materiale che gli serviva, tanto per tenere vivo sto lavoro. Un lavoro artigianale. E i formà è a prima scuola del merletto. Vedi che il discorso è diverso. Sì, un'opera sì. Meritoria. Ecco, nel 1595 un altro laboratorio che dà lavoro a 130 ricamatrici. Io dico che ne ho aperto un altro. Sì, sì, comunque proprio come lavoro, ecco. Sì, come lavoro. Certo. E dà insomma, preziosità a sta orazione. È il fatto clamoroso capita quando un hobby inglese. Senti, adesso andiamo in Inghilterra. Per l'incoronazione del Re Sole, l'ordina a due esperte ricamatrici di Venezia un collare fatto a punto in aria, tutto lavorato con capelli bianchi dorati. Con capelli bianchi dorati. Dorati che avrà da un fiato di purpurina per certo, sì, sì. Siamo già nel 1500, no? Insomma, è mio costare questo lavoro qua, 2 anni di lavoro. Pazzesco. Di lavoro continuo. Ed era un capolavoro di arte raffinata, quasi da parer fatto in avorio. Pensate la pazienza di questa gente, di queste lavoratrici, coste asse fine. Ma pensa con addirittura i capelli. E poi che c'è diversi testi che conferma. Ah sì? Sì. Addirittura i capelli, perché i capelli... Ecco. E il gaspeso, ha avuto una spesa totale di 250 ungari, che era un tesoro che a volta. Ungari no. È cosa? Soldi, ma non so gli sì, ungari. Sì, che, sì, di fare. Sì, che valore. È il valore, ma certamente ecco. Sarà stato molto, è molto, appunto, io doveva mettersi, ho perso in coronazione. Molto costoso, che ecco. Figuri, sa. Dunque, un altro fatto curioso, andiamo avanti male di qualche dieci, ventina di anni. Sì. Un fatto importante se venio sempre è un ministro di Luigi XIV, sì. Ebreo, un certo Gian Battista Colbert. Colbert, l'inventore della finanza. Ecco, è di fatti controllore generale della finanza. Sì. Sì, magari una parola. Ma era una reminiscenza storica. Amico caro, della finanza del re. E mette in opera un colpo fortunato di spionaggio industriale, anzi del merletto, rubando i segreti di produzione, visto che a faccenda fiava a marcia dritta, e se il caso dillo, a tutta birra. Anche in quei tempi c'era lo spionaggio. Quello che ha fatto col merletto. Ma ti vedi che è storia come che... Sì, come si ripete. Si ripete in maniera diversa, ma si ripete. Ecco, da furbasso che c'è in affari di commercio, è da ingaggiare ingosindo quella grana e carica a man generosa, e più brave ricamatrici, facendo crescere delle grosse manifatture nella capitale francese. Ecco perché il merlo è nato in Francia. Ah! Perché questo fa? Certo, perché ecco. Spionaggi, c'era di tutto. Cos'è la prima spartizione, il primo asporto, diciamo, Napoleone si arriva dopo, insomma. Si arriva dopo. Se sta all'opera di ste vaide operaie a curare il vario tendaggio di Camà, che rinfrescava e vista del Re Sole nel famoso teatro a Versailles. Sì. E sarebbe stata la gemma dei gemme sto teatro con 6.200 posti a sedere, perciò l'ore che ha fatto anche le tende per il teatro. Incredibile. Questo, avranno fatto anche i cuscini per le poltroncine? Poldati. Sì. Ma ora qua cominciamo da un fiantimaetto. La concorrenza francese fiamminga ha avuto i suoi frutti amari, tanto se è vero che ha dovuto intervenire inquisitori di Stato di Venezia, su incarico del Consiglio di Diese. Perché, sa, il Consiglio dei Dieci. E ciò, era un fiantino di Rosetti e dei Soati, ma certo. Quali queste donne che aveva bisogno di guadagnare qualcosa, perché non poteva scampare fuori, quelli che aveva i mestieri e arti qua. E io dicevo, venì a saperlo, ma non potevo fare niente, perché ormai c'era la crisi. Ha cominciato pestienze, fame, guerre, ora c'è stato tutto il blocco di tutti i commerci, dogane, però si dice adesso c'è questo, adesso c'è quello, ma anche allora c'era la peste, mamma mia. Se intervenisti inquisitori, ma ormai è frittata già da fatta, non avete da fare. il merletto veneziano non c'era in crisi come lavoro, ma non c'era più richiesto, l'andava a torsio perché Venezia sentiva già l'odore delle cadenze. Non più competitivo forse con gli altri. Perché gli altri ormai avevano cominciato a industrializzarlo. Non c'era più un lavoro fatto come veniva fatto qua. Ecco, anni neri si passava avanti e non c'era più serenità. E gli affari calava a causa appunto delle lungaggini delle commesse, che era burocrazia che bloccava tutto, l'economia politica, e gli ambasciatori famosi, esperti, dovevano sbassare a coa per la crisi europea. E quando andiamo a quella guerra, Venezia contro tutta Europa. Sì. E guerra, i merli metti in cassetta. Sì. Allora, l'Europa, per Venezia, è stato un staffo morale. Immagino. Una forte recessione minaccia l'industria. Però, vi è un miracolo. E viene fermata quella ripresa nel 1872. Siamo nel 1800. Siamo nell'8, del 500, nell'8. Allora, aspetta, fermati al 1800, che noi adesso andiamo ad ascoltarci un'altra canzone, molto carina, interpretata da Sergio Endrigo, Il dolce paese. In un dolce paese, dove chi sbaglia non paga le spese, dove chi grida più forte ha ragione, tanto c'è il sole e c'è il mare blu. Noi siamo nati in un dolce paese, dove si canta e la gente è cortese, dove si parla soltanto d'amore, tanto nessuno ci crede più. Qui l'amore è soltanto un pretesto, con rime scucite tra cuore e dolore, per vivere in fretta e scordare al più presto gli affanni e i problemi di tutte le ore. In questo dolce e beato paese. Qui l'amore è soltanto un pretesto, con rime scucite tra cuore e dolore, per vivere in fretta e scordare al più presto gli affanni e i problemi di tutte le ore. In questo dolce e beato paese vive la gente più antica del mondo, e con due soldi di pane e speranza beve un bicchiere e tira a campare. Eccoci di nuovo in studio. Franca, ti piacerebbe vivere in un bel paese come quello della canzone? Benissimo, passaria che non che fosse appunto nei ladri e che ne assassi quitti un pochetto, perché qua sennò veramente è magra. Allora proseguiamo, allora, siamo nel 1800 e 72. Allora siamo andati avanti, dunque che si sta ripresa, e a promuoverla c'è un'altra benefattrice. Tutte donne però, eh? Tutte donne, sì. No, gli uomini, imprenditrici. No, vale, al merletto, no, gli uomini. Ma insomma, anche chi... Sono sempre le donne quelle che hanno le idee. Perché ti vedi, sto lavoro qua, già era un lavoro tanto raffinato, tanto ben fatto, tanto costoso, tanto ricco, che non c'era una roba come adesso che ti trovi dappertutto. Partiva tutto da Venezia. Ah. Che erano queste lavoratrici che, cioè, che aveva dopo, quando chi formava queste scuole, ed era settenera che lavorava. Sì, ma le ragazze a 15 anni, 14 anni andavano già a imparare. E andavo a imparare, e tornava tutto da nuovo e tornava a insegnare sempre sto punto in aria, perché il punto in aria è il punto veneziano, punto burano, come ti vuol dire. Sì, sì, sì. E ora sta benefattrice, troviamo una persona da contessa, ora non è più dogaressa, è un'altra, una contessa. Adriana Zon Marcello, e lo ha istituito col patrocinio della regina Margherita d'Italia. Anche da regina adesso. Cioè era dama di compagnia della regina. Questa signora era contessa della dama di compagnia della regina Margherita. Sì. E istituisse una nuova scuola di Buran, sempre Buran adesso parliamo. Sì. Un laboratorio efficiente che porta gli allievi a un altro grado di professione, da farle diventare creatrici ancora del punto Buran, sempre qui in aria. E dice un pizzo ago, esiero e trasparente, da erede che poi non sarebbe altro che a base. Io ricominciavo sempre da erede. Cioè, la base era sempre la rete, dopo facevo... Io ripassavo sempre sta rete, so quanti metri che ne faceva, perché dopo sulla sta rete dovevi ricamarli. Per esempio, io ricamava tutti tutti gli addobbi dei cesi, per esempio, i paramenti sacri, sacri, tutti, perciò sotto che c'è sempre la rete, ora faceva il caice a spiga, anche le tovagliette da mettere sull'altare, no, proprio tovaglie d'altare, no? Cioè che ne avrà quasi 25 centimetri di sto ricamo, cioè dopo tutti i merli che aveva attaccati, cioè dopo gli faceva anche i lavori su ordinazione ecclesiastica, gli faceva per botteghe, per mercerie, perché era un lavoro che non c'era, diremo, non aveva protezione, non aveva non mi ricordo la parola, ti dico dopo. Vabbè, dai. Sì, con Stato, non aveva un monopolio di Stato. Era un supporto. Allora faceva sto esero, insomma, solo sta base. Al primo periodo non ha quasi duretto, perché ciò che si sta un fiato di siesta. E si sta duro, dato che la produzione non rende ancora. Anche se come maestra gli ha scelto una veterana, una vecchia ottantenne quasi. D'altra parte era la persona adatta, perché la vecchia del mestiere, che è Zera, fa conto che aveva nome Francesca Memo, chiamata Cenza Scarpariola. La produzione mette sul mercato, vedi, ora che cambiamo, ricami per ornare capi di biancheria, tutto l'usamento del nisciol, i merdi torno e fodre, ti hai capito? Tovagge, nisciol, ecco, va a cambiare stile di lavoro praticamente, cioè diventa industriale. Ma scusa, ma siccome io vedo qua, però questo lavoro di Burano è andato a finire che Pellestrina? Sì, dopo. Burano sta l'ultimo che lo gaccia, però dopo, punto in aria, parliamo del punto in aria di Burano, dopo il tombo, tutte le robe, lo gaccia anche gli altri, Torcello, Chioggia. Pellestrina, sì. Perché adesso è ore fa con i fuselli, no? Sì, infatti. Col tombo e coi fuselli, che invece il punto Buran era proprio in aria qua, ma ho capito, sì. Ecco, la diversità era questa. E sto pittore che nel 1897 questo pittore Edmond de Puri dipinse, ritraendo in una tela ad olio, una piccola merlettaia di Pellestrina. Ecco, ti vedi, tale Rosina Busetto. Ecco, sì. Ecco, che in sostanza è stata, che è morta giovane a 18 anni, no? Perché si vuole vedere la fame. È morta a 18 anni, no? Questa che si chiedono chi è stata costei, insomma. Noi sappiamo solo che all'epoca aveva 18 anni ed era una delle tante giovani di Pellestrina che si dedicava all'arte del merletto. Del merletto, tombolo, fuselli a tombolo. Però Rosina è diventata ora il simbolo di tutte le adolescenti, di tutte le merlettaie di Pellestrina, di ieri, di oggi e di domani. E adesso tutte le riviste, diremo, sue le ore, perché cioè, dopo Eurica ha fatto un museo di sta roba, pensi te, adesso tutti i quadri, E difatti De Puri sì, si chiama, la ritrasse seduta su una sedia impagliata davanti al tombolo, con gli occhi bene aperti e vispi, ed sì, i capelli un po' scarmigliati, nell'atto appunto di lavorare il merletto con l'apposito strumento in mano. E qui dice che sullo sfondo ce l'hai, non so se tu hai l'Antonio. No, mi intego sul portachiave. Sullo sfondo si scorge la laguna, mm-hmm, solcata da alcuni batteri in lontananza. Ecco perché sarà stata magari vicino al balcone. Ecco, quindi sì, questa merlettaia è... Guarda che bella che era. Sì. Era bella, 20 anni. Saranno belli anche adesso. Allora, ascolta Franca, già che sono, sì, che ho in mano sta cosa, sì, leggiamo la poesia, sì, dedicata alla merlettaia, certo, che è di Giovanni Busetto, sì, è del 1995. Giusto. Senza posa si muovono le tue agili dita, sapientemente seguendo la traccia del disegno magistrale. Si sente dal tinello il rumore dei fuselli, operosamente viventi nell'intreccio del lino attorcigliato. Ora va per tutto il mondo il frutto del tuo lavoro, lievissimamente portato in alto dai sogni come schiuma del mare. Stupenda. Ecco, bella, vero? Molto bella. Sì. Era donne famose, guarda come che veniva vestita particolare, sai perché mi per esempio qua ho un giornale grande e se tutte fora diremo sul salone dedicamo, sì, e sarà guarda una centenera, mamma mia, tre per fila, sì, e se due insegnanti che segue. Però il tombo yoga in sui zenocci. Ma vedi Franca, queste scuole, queste anche erano proprio momenti di aggregazione anche, certo, per le ragazze, che oggi non c'è più. No, era di aggregazione per il fatto che dopo ore, quando che era da sui, cioè che era sorveglianti, noi sapevamo da sui e si contava di questo, certo, di Peo, di Morosi, di Tosetti. Sì. Avrà fatto anche qualche baruffa e si avrà capelli, però era composte, silenziose, tutte chine e aveva tutta una pettinatura particolare, forse era dell'epoca, Iacciama cipolla. Quella in su in alto? Su in alto, tutta bella di gonfiatone, dopo sul cocù, su giù della testa, e una specie di signon piccolo. Come a segue a quella stellata, cipollina, sì, quella stellata, ecco, fa conto, è una pettinata così, perché tutte pettinate così. Perché forse allora usava quel tipo di pettinatura. Sì, ma ti sa che si usa ancora, a volte vedo qualche donna che mi fa il parrucchiere, qualche signora che ha i capelli lunghi e ha la pettinatura a cipolla. Sì, beh, io ho un'amica anche che ha tipo di pettinatura, insomma. Sì, sì. Anche se a me personalmente non... Che vuol caveglia. Sì, ci vogliono capelli. E adesso i cotona, ma una volta ne cotonava, o se ne metteva tutto il bombaso dentro. E dopo sì, restavano troppo piatti, lisci. Sì. Vabbè, ci fermiamo un attimo, sì, e ci ascoltiamo una canzone. Sì, datemi che ho quasi finito. Allora, adesso ascoltiamo la quarta canzone in programma, che è cantata da Jimmy Fontana ed è intitolata La mia serenata. Io che riesco anche a volare se soltanto penso a te. Io che posso anche cantare senza voce se soltanto sogno te. Non so perché, quando tu sei lontana, passo il tempo a parlare con te, ma se tu sei qui, io non parlo più. anche se tu sai che quando sono con te non parlo mai. La, la, la, la, la, la, la. Eccoci di nuovo, Franca. Eccoci qua. Tutti qua. Tutti qua. Allora, insomma, siamo arrivati a Scarpariola, no? Scarpariola. Scarpariola, cincia. Ovvio ti pensi che la donna è agora fin 80 anni passai, e era cieca, diventata cieca, e ha avuto come pensione del lavoro che faceva 15 lire dell'epoca. Mamma e quando, che, quando che è andata a firmare per avere questi soldi, ha firmato con una croce perché era anche analfabeta. Addirittura. E dice che è discenda sta memo da gens romana anche io, ma non che se notizie sicure, non che se notizie sicure, perché nei suoi archivi ha fatto delle ricerche, non è che se. Ah. Però ti vedi che manchi a aveva anche se ne era anche se non ci vedeva faceva lo stesso, noi è proprio tanto, è tanto, diciamo, anche sui libri de storia di Buran, di Muran Pestina, che sia come prima diremo persona ai riconoscimenti, insomma, nella pensa, storia era talmente pratica, sì, del sì, lavoro sì, che sì, sì. Sì. Dopo lo faceva così, lavoro, come sì. Si dice ad occhi chiusi, ecco. Sì, sì, sì. Mi pare non capisco come che faceva col punto al tombo, diremo, con i fuselli, perché guarda chi che ne capiva, meno che credo, addirittura più di 150-200. Ma ne aveva di tutte le misure, no? Sì, ma ti dico, ma tenerli per me, lavoravo con 5 e poi metteva giù, ti lavava stati 5. Un'arte straordinaria. E poi invece, ti vedi... Antonio e me, era sul tombo che aveva il disegno. Era, quindi c'era già un progetto sì. Iniziale. Ora io riposava, io fermava tutto qui a Ghida Pomo. Ah, sì. Ecco. E dopo andava avanti di Camarghesura e a Trama che c'era sul disegno. Comunque un compito non indifferente. Oh, in io ogni ne faceva metris a metri, perché dopo pensate. Io vendeva dai marseri, vendeva sì, insomma. Sì, sì, sì. E ora scatta dunque questa produzione con l'insegnamento di Accincia e mette sui mercati ora ricami, ma no proprio diremo quei capi a bancheria e roba personale, appunto sugamani, nisioi, centrini, tovaggi, roba così da poco. Di poco conto? Sì, no, poco conto, non c'era più il lavoro che faceva sì, in principio, no? E pochi, raramente, ora che anche i paramenti sacchi erano andati fiorentini dei cadenti a quello, e lavorava sia per l'Italia e per l'estero. Sì, quindi si è ecco, sì, sono tanto se vero, ora che andiamo mie 8 e 99, viene deciso all'epoca di attaccare nei merli de Buram un'etichetta di fabbrica. Poi è scritta in Zaro, Scuola Merletti Buran, patrocinata da Sua Maestà la Regina Margherita. Ah sì, perché? E messa con un sigillo piombato. Penso un po'. Quindi un marchio di fabbrica, marchio un de marchio fabbrica. Di riconoscimento. Sì. Allora, dopo, sempre in questi anni, il suo, insomma, si prepara una mostra in casa della contessa, quella che ha promosso l'ultima scuola, diremo. Sì. E è stata appunto promotrice a Contessa Marcello. È il materiale esposto, se quello destinato per una gran esposizione a Parigi. Questa Contessa Marcello, era, adesso non mi ricordo, era la dama di compagnia della regina. Sì, sì, ecco, sì, ora sempre nel suo caso, sì, e fa una mostra. Sì. questo materiale che metti in mostra è esposto e è destinato per la grande esposizione a Parigi. Ah, vero? Sì, sì. È il più importante lavoro di tutta questa roba, è quello alto più di mezzo metro. Non so di lunghezza, ma del testo è più di mezzo metro. Guarda che è un merletto bello grande. Sì, eh? Attenta. Copia da un merlo storico, cioè se è stata di produzione. Però sì, io ho copiato da un merlo storico che ha portato il Papa Rezzonico. Ah. Inserito sotto la tonica bianca, il cotone bianco che ha, dopo ne ha toccato il merlo attorno. Ho capito, sì. Ecco, sì, lo aveva e ha. E sto Papa Rezzonico è stato col nome Clemente VIII, un veneziano. Proprio veneziano, veneziano. Poi, sto merlo è passato nel tesoro di Casa Savoia. Sto mezzo metro di merlo. Sì, sì, beh, a casa della regina, sì. Sì, casa Savoia. Re Vittorio Manuel è gli impresta alla principessa del Piemonte come ornamento dei suoi vestiti. È bella volta usando tanto. E l'attuale regina d'Italia lo presta alla contessa Marcello, sua dama, per fare a mostra. A scopo di farlo copiare dalle operaie buranesi. Insomma, un giro. Guarda che giro che ha fatto. Un giro lungo, un giro di boa proprio. Nesto museo si conserva ben 68.000 modelli originali da oltre tre secoli. Pensa un po'. Un trafietto si sa che il merletto è un vero lusso, non tutelato dalla legge e in continuo subisce concorrenza di prodotti che costa manco, provenienti da Napoli e dalla Cina. Adesso sì, adesso i merletti provengono dalla Cina. Ecco, sta di produzione di sto mezzo metro di roba è lavora di 7 tose per 7 anni per riproduzione. Mamma mia, queste pensa. Cose 17 ragazze per 7 anni. Per 7 anni. No, sì, una cosa inestimabile, no, naturalmente, insomma, fuori mercato, sì, tutto sì, si sì, sa. Sì. Adesso che se spazio ancora, voglio dirte. Sì o no, se no saremo. No, no, che sei, che sei. Allora, adesso con sto merletto, ti sai che ti porto? Sì. Aso. Ah, da Cornaro? No, no, no. Dunque, non possiamo lasciare Aso, cioè non dovevo lasciare a parte Aso, senza una gran visitadina ai signorine di vecchi merletti, che è stato do sorei, do contessine, che ha aperto una specie di bottega, di laboratorio del merletto. Ed è le contessine Laura e Claudia Loredan. Ah, le Loredan, sì, che sì, da 25 sì anni e dirige la scuola di antico ricamo. Non si tratta di una scuola, ma un laboratorio artigiano che ha mantenuto la denominazione scuola, perché molti diceva scuola, perché così si chiamava e fece botteghe artigiane, dove i giovani imparavano l'arte. D'altra parte era scuola, è giusto sì, che si chiamasse scuola? Sì, la scuola è nata nel 1890, il suo fondatore era l'inglese Robert, aiutami. Browning, forse? Browning? Sì, sì, Browning, sì, sì, famoso. Figlio del poeta, esatto, ed Elisabetta Barrett. Sì. Guarda, ti dove che Elisabetta Barrett, Browning, Elisabetta sì, famosa Barrett, poetessa. È figlio di ha scritto delle belle cose, sì, anche dei romanzi. Sì, ma ti dico che ha fondato sta scuola di merletto. Insomma, se che ne impara uno ogni giorno. Ecco, veramente, perché aveva deciso di stare a casa a Aso. E a scuola dopo si è passata da diverse traversie e ha continuato grazie a costanza dei donopi sorei che sotto il suo insegnamento l'arte è stata attiva, continua nel ricamo a fi contai, tipo di punto riserva, alto vasato, niscioi e centrini. Sì, poi è passata... Mamma mia, Franca, hai fatto una spiegazione bella. No, mi spero che vi gradio sta. Certo, certo. Volevo fare una considerazione in materia qua. Questo, come altri mestieri che ha fatto grande l'Italia, eccetera, la colpevole, come dire, noncuranza, indifferenza, quello che si sta negli ultimi decenni, e nel lasciar cadere... diciamo, la le scuole, cultura, la cultura professionale, le scuole professionali, sì, l'abilità, vero, la manualità, la creatività, eccetera, considerata quasi come una cosa di secondo sì, ordine. Secondo, sì, sì, e sì, adesso se incorgiamo di quanto, cosa che manca. Quanto che manca. E Bortolussi e la CGA di Mestre sì ha fatto un calcolo: entro il 2020 mancheranno 285.000 posti di lavoro, che sarebbe di elevato. Adesso bisogna dare atto che ultimamente che c'è stata una certa come dire resipiscenza, chiamiamolo, un certo rinsavimento con artigiani 2.0, sì, cioè sì, il trovare è un ritorno, è un inizio, una riconsiderazione. Ma per dire quanti anni che c'è passato passando andare tutto quanto a remengo. Ma se tu cerchi un idraulico devi cercare con l'antennino, quindi questa è la colpevole diciamo indifferenza di chi che poteva, sì, che poteva mantenere, di mantenere per esempio una nicchia. Non si trattava di andarsene come nel Medioevo per fare i mestieri, ma mantenere quella memoria di questi mestieri in modo che non andasse tutto quanto a remengo. Questa è una mia considerazione personale. Giusta, l'ho fatta anch'io stamattina, non mi ricordo più con chi, ma l'ho fatta anch'io questa considerazione, cioè mancano le scuole artigianali, mancano i ragazzi, non sanno più fare ancora neanche... La manualità è una cosa straordinariamente importante, e anche sarte non ce ne sono più. Sarte no. Appunto, ogni tanto invece nella bottega o lo svelto, tu Franca adesso andrai in ferie? No, non so. Comunque non sei ancora qui, insomma, per un po' di tempo. Sì, noi ti ringraziamo. Ringrazio voi. Ecco, hai fatto veramente un bel lavoro. Grazie. Quello di oggi, di stasera, ma anche quello delle volte scorse. Stasera tocca al merletto, un'altra volta toccherà un altro mestiere. Va bene. Ringraziamo e alla prossima volta. Allora, grazie e buone vacanze. Ciao Franca, ciao. E andiamo con l'ultima canzone. Sì, ringraziamo ancora la Franca e andiamo con l'ultima canzone. Che è cantata da Ornella Vanoni, Bello Amore. Bello, bello amore, amore bello che nessuno può negare. Ti vogliamo eterno, ti imploriamo in ginocchio di rosare. Non andare via, che ci fai morire. Bello, bello amore, amore bello da volere, da sognare. Come un paradiso senza pace, scorri nelle vene. Dolce malattia, che volersi bene. Grande quando ci sei tu, forte come un fiume in piana. Cosa non si fa per te? Io se canto, canto te. Amore bello come il sole, come il sale. Dolce malattia che volersi bene. Vita, grazie a questa vita. Grande quando ci sei tu, forte come un fiume in piena. Cosa non si fa per te? Io se canto, canto. Amore, amore, bello, amore bello. Eccoci di nuovo in studio per i saluti finali. E allora, qui è sempre troppo veloce, anche perché sì, queste considerazioni magari hanno rubato un attimo di tempo, però io ho l'impressione che siano cose da fare, anche perché dobbiamo, a mio avviso, rinsavire. Non è mai troppo tardi, una volta diceva il maestro Manzi. Speriamo. Antonio, grazie. Grazie a te e grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci finora. E a Dio piacendo, ci risentiamo domenica prossima. Naturalmente. Ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.